Canto 28 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 28. Chi poria mai, pur con parole sciolte, dicer del sangue e delle piaghe appieno, chi ora vidi per narrar più volte? Ogni lingua per certo verria meno, per lo nostro sermone e per la mente canno a tanto comprender poco seno. Se s'adunasse ancor tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente, per li romani e per la lunga guerra che dell'anella fesi alte spoglie, come Livio scrive che non erra, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare Ruberto Guiscardo e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, là dove fu il bugiardo ciascun pugliese e là da Tagliacozzo, ove senz'arme vinse il vecchio Alardo. E qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, d'agguagliar sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. Già veggia per mezz'ul perdere o nulla, com'io vidi un, così non si pertugia, rotto dal mento in sin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia, la corata pareva, e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi, e con la man s'aperse il petto dicendo: or vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto, dinanzi a me sen va piangendo a lì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, e tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fur vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro, che n'accisma sì crudelmente, al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma, quando aven volta la dolente strada, perocché le ferite son richiuse prima ch'altri dinanza li ribada. Ma tu chi sei che in sullo scoglio muse, forse per indugiar dire alla pena che giudicata in su le tue accuse? Né morte giunse ancor, né colpa almena, rispose il mio maestro a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena. A me, che morto son, convien menarlo per l'inferno, quaggiù, di giro in giro. E quest'è ver così, com'io ti parlo. Più fur di 100 che quando l'udiro s'arrestar nel fosso a riguardarmi, per maraviglia obbliando il martiro. Or dia fra dolcin, dunque, che s'armi. Tu che forse vedrai il sole in breve, s'egli non vuol qui tosto seguitarmi, sì di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al noarese, ch'altrimenti acquistar non saria lieve. Poiché l'un pie per girsene sospese, Maometto mi disse sta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Un altro, che forata avea la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia e non avea ma che un'orecchia sola, restato a riguardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia, e disse: «O tu, cui colpa non condanna e cui già vidi su in terra latina, se troppa somiglianza non m'inganna, rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a vederlo dolce piano che da Vercelli a Marcabò di china, e fa saper a 2 miglior di Fano, a Messer Guido ed anche ad Angiolello che, se l'antiveder qui non è vano, gittati saran fuor di lor vasello e mazzerati presso la cattolica per tradimento d'un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai sì gran fallo Nettuno, non da pirati, non da gente argolica. Quel traditor che vede pur con l'uno e tien la terra che tal è qui meco, vorrebbe di vederla esser digiuno. Farà venirli a parlamento seco, poi farà sì ch'al vento di Focara non farà lor mestier voto né preco. Ed io a lui: dimostrami e dichiara, se vuoi ch'io porti su di te novella, chi è colui dalla veduta amara. Allor pose la mano alla mascella d'un suo compagno e la bocca gli aperse gridando: questi è d'esso e non favella. Questi, scacciato il dubitar, sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre condanno l'attender sofferse. Oh, quanto mi pareva sbigottito, con la lingua tagliata nella strozza, curio ch'a dicer fu così ardito. Ed un ch'avea l'una e l'altra man mozza, levando i moncherin per l'aria fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: ricorderatti anche del Mosca, che dissi, lasso, capo a cosa fatta, che fu il malseme della gente tosca. Ed io v'aggiunsi: e morte di tua schiatta, perché egli accumulando duol con duolo, sengio come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo e vidi cosa ch'io avrei paura senza più prova di contarla solo, se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'uom francheggia sotto l'usbergo del sentirsi pora. Io vidi certo, ed ancor par ch'io il veggia, un busto senza capo andar, sì come andavan gli altri della trista greggia, e il capo tronco tenea per le chiome peso al colmana guisa di lanterna, e quel mirava noi e dicea: oh me! Di sé faceva a se stesso lucerna, ed eran due in uno e uno in due, come esser può quei sa che si governa. Quando diritto a piè del ponte fue, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue che furo: or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi s'alcuna è grande come questa. E perché tu di me novella porti, sappi chi son Bertram dal Bornio, quelli che diedi al re Giovanni ma conforti. I fece il padre e il figlio in sé ribelli. Achitofel non fe più d'Absalone e di David come malvagi pungelli. Perch'io partii così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che in questo troncone. Così s'osserva in me lo contrappasso. Fine del canto 28.